headlights are on. Eccoci qua, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza 21.05 anche per oggi 12 luglio del 2017. Un ennesimo appuntamento che andrà avanti sino alle 22.30. Rimane il dubbio della presenza della trasmissione successiva 25 o'clock, un dubbio che risolveremo presto. Vedo che lo streaming, che si può attivare attraverso www.ondarossa.info, è già particolarmente frequentato, per cui si va a salutare Rodrigo Passannanti da Londra, Nicola dalla Sardegna, Raffaele da Napoli. Il buon Like Wake qui da Roma, Antonio da Firenze, Giulia qui da Roma, Alessandra qui da Roma. Giovanni da Bari. Riccardo Martucci da Taranto, eccetera, eccetera, eccetera. E quindi 90 minuti dove faremo il nostro consueto viaggio attraverso sonorità industrial, dark ambient, noise e ciò che ruota intorno alla sperimentazione in genere. E salutiamo anche Stefano of Florence di Artico Culto. Raffaele Pezzella, come al solito, viene nominato abbastanza frequentemente perché è uno degli ideatori di un ciclo di compilation che abbiamo il piacere sempre di diffondere attraverso questi microfoni. È il turno del Belgio con un Belgian Experimental Underground 17 Survey. Una lunga sequenza di progetti provenienti dal Belgio, molto sotterranei. Questa sera ci andiamo ad ascoltare Owen con questa Frozen e poi Misantronics con Yeta. e dunque era Owen. John the Peppe, come giustamente ricorda Raffaele Pezzella, un musicista che ha evidenti legami con la vecchia tradizione dei Corrieri Cosmici che facevano capo naturalmente a Tangerine Dream, Klaus Schulze, lo stesso Vangelis se vogliamo e Jean-Michel Jarre per altri aspetti. Ancora dalla medesima compilation, eccolo qua, Misantronics, e questa è Yeta. E Mesantronics è uno di quei numerosissimi progetti provenienti da Anversa, Anversa vero e proprio fulcro della scena elettronica e sperimentale. Basta fare due nomi, Akamasots e Dive, che ci andremo ad ascoltare più tardi, che in ambiti diversi rappresentano però la realtà di quella città. Salutiamo di nuovo Alessandra, Alexia e Tenente Dan, tutti quanti qui da Roma. Viene anche citata, vengono citate anche varie altre influenze, Albanoto, Fennez, il post rock della Bradford, ci può stare tutto in queste atmosfere così dilatate. E viene anche citata un'altra scena un po', anzi parecchio trascurata, ma validissima, che è la scena iraniana, una scena che anche sempre grazie a Raffaele Pezzella, alla ripresa di queste trasmissioni che ricominceranno nei primi di settembre, andremo a approfondire attraverso un'altra antologia. Infatti andremo avanti probabilmente fino a mercoledì 2 agosto, poi anche la radio stessa avrà una, osserverà una pausa e torneremo dunque in settembre. Ci spostiamo più a nord, esattamente Svezia. Peter Bjargo, Peter Peterson, che ha preso il nome della sua moglie Cecilia Bjarko, e in alternanza agli Arcana sviluppa anche un suo progetto solista che ovviamente porta il suo stesso nome. L'ultimo lavoro si chiama Animus Retinentia, un album molto interessante, infarcito, arricchito da influenze neoclassiche e neofolk. No, in ottima forma qui Peter Bjarko, devo dire. Lo abbiamo apprezzato anche mercoledì scorso e ripetiamo la cosa andandoci ad ascoltare War Night is Eternal. E poi ho scelto anche Transcend Time. Thank you. Le note maestose di Peter Biargo in questo Animos Retinentia, il suo ultimo lavoro, un ottimo lavoro, molto influenzato, si saranno accorti i nostri amici che ci stanno ascoltando, per esempio da Brendan Perry, The Deccan Dance, mi sembra evidente l'influenza. E quindi un inizio di prove tecniche di trasmissione improntato su queste atmosfere sognanti e oniriche, molto crepuscolari e con un tocco di gotico, soprattutto nel caso di Peter Biargo. Vorrei ricordare anche l'urgenza della sottoscrizione, giacché i mezzi tecnici dei quali disponiamo sono un po' segnati dal tempo. Non è un pianto greco, ma una constatazione oggettiva. Per cui 6180 4001 è il conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale 2001, Via Volsci 56 00185, Roma. Nel sito sono presenti anche le modalità più elettroniche, carta di credito, eccetera eccetera. Torniamo in Belgio e lo facciamo questa volta con un maestro dell'EBM Attrazione Industrial, trattasi di Dirk Evans. Finalmente, dopo molti anni, torna anche come Dive, circondandosi di nuovo dei suoi vecchi amici. Rafael Espinosa, ossia Geistform, una delle espressioni più convincenti del tech noise, e Ivan Jusko, fondatore della Minus Abends. E musicista anche con come hit Nightmare Lodge e tanti tanti altri nomi. L'ultimo lavoro si chiama Undernet e oggi ci ascoltiamo Howling Ground e M-Man Came. Sounds blinded by hate. benissimo Dirk Evans e i suoi Dive da questo Undernet, ultimo lavoro composto diciamo a sei mani con Rafael Espinosa in arte Guysform, Ivan Iusco e lo stesso Dirk Evans, che si è impegnato a comporre due brani, tra cui appunto questo è Man Came, questo brano più riflessivo rispetto al precedente Howling Ground, tipicamente stile Guysform. Finalmente, dopo circa 13 anni di essenza, dopo Beyond the Sun, altro album eccellente per questo artista belga. Intanto salutiamo altri amici che si sono aggiunti, il buon Giovanni Campagna, Sounddog 65 e Stigmate. Scusate, Sounddog 65 da Londra, anzi da Copenaghen, lui da Copenaghen. Molta gente questa sera, ci fa piacere, ci confondiamo anche un po'. L'importante è che il tutto sia gradito come sonorità fino ad ora espresse e proposte. Andiamo dietro nel tempo e andiamo ai primordi dei Coil, quando si facevano anche chiamare e collaboravano con un'entità parallela dal nome Zoschia, o Zoschia che dir si voglia. Un unico lavoro dal nome Transparent. E questa sera ci ascoltiamo Rape e Poison. Thank you. hands are clean and holy. We give anything to leave now. We give anything to leave now. It's not anything. Christ slipped through your hands. After we arrange reality to come back here to this universe. Si chiamava Transparent questa testimonianza, è più che altro live, una splendida testimonianza live dei Coil più primordiali. Qui c'è John Balance, vero nome ricordo Geoff Rushton, insieme a John Goslin e Min, e sullo sfondo ai controlli il buon Peter Christofferson, che ovviamente conosciamo anche come Throbbing Crystal. Parla un po' qui della scena con Antonio, Raffaele, eccetera, eccetera, di quegli anni, oltre ai Coil, Monte Cazzazza, Lydia Lunch, Nars, Wit Wound, Psyche TV, Throbbing Crystal, SPK, eccetera, eccetera, eccetera, e quindi c'è anche una bibliografia conseguente, per esempio England's Hidden Reverse, Strange Attractor, che è un libro che mi si dice qui molto interessante. Why do I have to stand and take the blame for your sins again? I spent my life in jail, paying for you, so that you could ride your bicycle, have your birthday party. Come Industrial Research Handbook, altro libro consigliato dal buon Raffaele Pezzella. You know, I go to the desert. I'm not even allowed to live in your desert. I'm no good for anything except to be you. E quindi abbiamo iniziato anche. E anzi, abbiamo iniziato soprattutto, soltanto con artisti provenienti da fuori Italia, e quindi è il momento di concentrarci qui sulla nostra penisola, che ha fornito e che fornisce ancora talenti indiscussi. Cominciamo con il conoscere il Stigmate, un progetto dietro il quale si nasconde Nicola Locci, artista sardo, che salutiamo di nuovo. Ho la fortuna di avere questo Music for Parasites, credo l'esordio proprio come Stigmate, un album industrial noise che si apre con questo Under the Pyramids.